figlia, vero? Però no, non sono stato un bevitore io. Magari prima, quando non avevo la fine fasciata, allora eri fasciato di Gabbo Burueu e allora era diverso. Ma così Marasucci mi altera il sistema nervoso, non lo so perché, ma tipo adesso quando c'è tipo alta pressione o bassa pressione, quando c'è tipo alta pressione tipo mi rimangono un po' compressi i nervi, perché deve essere dove hanno agito c'è qualche schiacciamento strano, e invece quando c'è bassa pressione rimane nei villanadi. Quindi guarda, un casino, spiegatelo Gavi a chi fa con combattenti contro una greffa di non il gioco. Combatto contro me stesso, una vita come te, tu duni, siamo nati bassofrini, vai no Ramona. Tu quando c'è bassa pressione bevi vino rosso e acqua vita, quando c'è alta pressione ti bevi una birretta che ti rinfresca. Vai tranquillo, tu non punire a nessuno, tu quando c'è la bassa pressione ti bevi uno o due bicchieri di vino rosso, mangi bene senza, visto che non fai movimento, prenditi, mangi qualcosa di leggero e poi basta non mangiare pasta, non mangi pasta e mangi metà panino e ti fai fare una bistecca, una fettina, una cosa, un pesce, dei cavoli, delle verdure grigliate, e ti bevi uno o due bicchieri di vino rosso e poi ti pigli un bel caffè, ti fumi una sigaretta e ti pigli la matta caffè e vedrai che ti rilassa tutto quanto lo sistema. E quando è d'estate, una bella defaticante, una bella birra anche analcolica o alcolica a pranzo, analcolica a cena, e pigli e vedrai che ti riuscirai bene. Intanto, vabbè, è inutile, io dico sempre una cosa, inutile starsene delle cose, non dico che uno usa dei vampizzi, a chi non è che dà dei vampizzi, però due bicchieri a pranzo, due bicchieri a cena e una mazza caffè a cena, sempre, se non si deve guidare o se non si deve lavorare, non ho mai bucato nessuno. Da niente, vabbè, da rivecci sono campati 20 anni così, senza vipucaria, però Coca-Cola. Guarda, adesso fate gli scherzi, fa più bene un bicchiere di vino rosso che una lattina di aranciata. Questo qua è constatato, questo non lo dico io sto scherzando, non è che sto così dicendo cose, però fa più bene un bicchiere di vino rosso a pranzo ai pasti, invece di una lattina d'aranciata o Coca-Cola o i Jabitù, compreso. Seguito, no, ma io mi bevo un bicchiere di birra e poi mi bevo due limoncini, tre limoncini dopo cena. Ecco, mi sono fatti male. Invece beviti un bicchiere di vino e dopo cena, due o tre volte alla settimana, ti bevi un bicchierino d'acqua vita, se proprio devi digerire, se hai mangiato pesante. E vedrai che non ti fa niente, non ti fa niente. Il vino, guarda, il vino, chi lavorava in campagna ne beveva anche due litri e mezzo al giorno, gente su bici, aspetta che va bene, 95, 96 anni, chi travagliava in campagna bevevano 2 litri di vino, 3 litri di vino al giorno e mangiava di gaggio, salsiccia e l'aglio. E dicevano sempre, il lardo importante è non cucinarlo, perché poi il lardo a crudo, 2 o 3 fette fanno bene. Sì, ma infatti il lardo a crudo è buono, 2 o 3 fette come hai detto tu è rinfrescante. Ma a dirti la verità, non ne so come di più, perché in genere qualche volta mi bevevo qualche Coca-Cola di quelle piccoline. Ma invece ultimamente, quando ho l'acqua fresca, gli aggiungo un dito di tipo limonata, giusto per avere quel sapore e quell'aroma, tipo rosai, quel retrogusto del limone, e ci sta bene tipo dopo pranzo o anche dopo cena, perché non rimane gassata, anche se rimane appena appena zuccherata, come, però l'ho tagliata a proporzione 1 a 10 e micidiale, te la bevi proprio con gusto l'acqua fresca con appena appena di limonata, ma appena appena mi giusto badare l'usaolo. Poi del resto a mangiare tipo a pranzo, come dici tu, se la mattina mi ho mangiato mezza spianatina, che poi mi faccio la spianatina io sempre con prosciutto crudo dolce, foglie di lattuga e un filo d'olio e mangio bene. poi a pranzo mi faccio fare tipo degli straccettini di pollo con sempre un pochino di insalata di lattuga, con qualche pezzettino di pomodoro, con l'olio evo, e mangio bene, la verità. E niente, non mi appesantisco, a che si dica da maniera, mi bonga magnani, badì, un piatto di brodo e poi mi mangio un pezzo di carne lessa con il brodo. Cazzo, da voi divento una bombetta, divento, e sto gu, cavolo, ho mangiato come un porco, e sto gu, mezz'ora di cucina, a Chiaravini di Viena e ti pacca. Invece da maniera rimani tranquillino, poi ti bevi un caffè, se c'è il bicchierino del vino, ti bevi pure il bicchierino del vino, magari da sempre mezza sigaretta, e stai bene, poi ti rilassi e riesci a farti quelle due orette o tre orette di sonno. Però non rimane un sonno pesante, rimane un sonno sempre un po', non lo so, che forse ti va giù mille glicosi, 30 rugabo, mille pensamenti. Adesso tipo babbo doveva andare alla riunione e praticamente non ci è andato stamattina. Infatti rimane esile, tipo in fascia dalla prigione della macchina. E quindi era pieno. E allora gliela smontata Davide stamattina, tutta canta, vera tutta canta sabottata. Poi è andata a piazzare la frizione e non andava bene, perché tipo le tre spine del volano non coincidevano. Ce n'era una, deve essere che era in fabbrica fatta male. Allora è dovuto salire a sorso, andare all'autoricambio, gliela sostituita, è risceso, l'ha rimontata, mi hanno finito i tipi di... non ti dico un paio di rivani, però già gliel'ha fatta. E poi praticamente qui è morto, tutto regolare, l'ha provata e se ne scendeva di giri e più di 30 non andava. E alla fine cosa c'era? Quel sensore giri motore, che deve essere come ha lavato il motore, la spinetta era sporca d'acqua, quindi deve essere andava in corto e la centralina entrava in protezione. L'ha tutta soffiata, controllata ed era fuso. Allora, ma te l'ho detto che era, ieri quando ti ho chiamato te l'ho detto che era quel sensore di giri. Il sensore di giri, se c'è qualcosa che non va, ti fa salire la macchina a 2500 giri e allora poi non piglia giri. Se fai prima, vai in prima tratta 50, in seconda poi non piglia giri, in quinta andai a chiudarsi. Cioè andai a chiudarsi, non si chiuda, però ti tiene sotto, va in protezione lì. Ebbè. Quindi già, tu da sapigli la Schweppes e tutti quanti che si cosi, a chi lui si trucca, non è? Tu pensi che la Schweppes, quella roba lì, faccia bene? Non fa bene. Molti sono convinti della roba perché è analcolica, dice è sana. No, non è così. Ma non lo dico io, Tu lo sai che io sono diabetico, faccio insulina, e anche il diabetologo a me mi aveva detto una volta, mi ha detto inutile che io te lo vieto, perché se te lo vieto tu lo fai due volte tanto, ma chi mai tu c'è un carattere che lo fai, però non bere roba zuccherata, non bere roba zuccherata, però è preferibile più. Mi ha detto ti piace bere il vino rosso buono, selezionato, beviti un bicchiere di vino rosso a pranzo, un bicchiere di vino rosso a cena, e poi però non devi bere altro. Però a me mi piace a Burguru andare da acqua vite, una mazza caffè, e due, tre volte alla settimana me lo bevo dopo cena, capito? Però già, è inutile che tu non mangi pasta, inutile che tu non mangi un piatto di pasta e ti bevi un bicchiere di Schweppes. Il bicchiere della Schweppes è quanto un piatto di pasta, contiene gli stessi, lo zucchero è lo stesso, perché è tutto, lì sono conservanti. Tu pensi che ci sia succo di limone lì? Ma assolutamente no, è come la Fanta. Della Fanta dicono la Fanta aranciata, quella non è aranciata, quella è tutta quanta roba industriale. Se vuoi trovare il 30%, il 30-40%, adesso non mi ricordo bene quanto siano le dosi, di arance, devi prendere la Loran Soda. Oppure se vuoi bere la limonata, sempre con lo stesso coso di limone, la Lemon Soda. loro quelli usano il 30-40% dei limoni, poi c'è acido citrico, queste cose così, zuccheri aggiunti, conservanti, sciroppi, va bene, però c'è quel 30-40% di limone o arancia. Nella Fanta, nella gazzosa, nella limonata, di lì, quella è tutta roba industriale, non c'è niente di limone vero, tanto male che prendi, vuoi i limoni, fai venire a Davide e ti dico quanto ne vuoi di limone, ti fai spremere 10-20 limoni, ti metti appena appena, ti metti un po' d'acqua, un po' di acqua gassata, e te lo metti in frigo, e allora quella è limonata vera. Ma per bere quella roba lì, a me me l'aveva proprio detto, mi ha detto, è inutile che tu bevi la Fanta dà un picco glicemico, mentre il vino il picco glicemico non lo dà, logicamente non te devi bere 2 litri, però un bicchiere, uno o due bicchieri a pranzo, se ne bevi 2 a pranzo, 2 o 3 a pranzo, non devi bere a cena, poi lascia perdere i superalcolici. Metto una volta, ogni tanto ci sta a trasgredire con quello che vuoi, però è sempre meglio un distillato piuttosto che un liquore cioè zuccherato, capito? Io? Almeno io ho trovato questo qua che mi aveva detto queste cose qui e mi sono accorto della differenza. Sì, sì, ma in effetti è così, ma io tipo roba zuccherata come hai detto tu, aranciata, Coca-Cola, che così, non ne sto bevendo più perché nel mio caso interagisce sul sistema nervoso, praticamente la cosa gasata mi infiamma il sistema nervoso. E quindi tornando al discorso tipo della limonata o degli sigosi, non è che la bevo così pura, cioè praticamente se ho la bottiglietta dell'acqua mi faccio un sorso d'acqua dalla bottiglietta e poi gli aggiungo appena appena proprio di limonata, giusto per avere quel retrogusto del limone, però alla fine è acqua, capito? Perché magari la bevo con più. E poi non lo so, sto bevendo acqua e qualche bicchierino di vino, perché ho visto che mi aiuta nella digestione e la diuresi è più corretta. Invece di ghida maniera rimanere tipo gonfio, tutto quanto alterato, il sistema nervoso mi va a fuori di gabbo. Poi anche sigarette, non è che ne so fumando più di tanto. Io ce li ho nella scrivania perché ogni tanto sale i figli di Davide, no? E mi dicono, zio già, ha detto babbo se c'è qualche sigaretta, e già ci sono lì nel pacchetto, mi prendo. E allora gli dico, prendine 2 così se magari ce li ha. Va bene. Però io in genere mi faccio una sigaretta di chi si con tabacco, mi. Io fumo quel tabacco Pueblo, la bustina blu. Però mi faccio una di quelle sigarette e mi dura tutto il giorno perché mi faccio 2 tiri, anche se è un tabacco buono asciutto senza essere trattato industrialmente, perché è un tabacco tipo raccolto dalla pianta, essiccato, quindi è acqua e tabacco. Però anche se c'è quel saporino, dopo che ti fai più di 2-3 tiri ti rimane quella marognola in bocca e non mi piace perché... allora magari l'appoggio, cosa ne gioco? Magari gioco a Biden che cosa, a prendere che cosa, allora poi me ne faccio altri 2 tiri. Però non me la fumo mai tutta di un botto di morosità, perché non sono più abituato. Se così quando stesso c'ho qualche ciuffetto di frasco, anzi quella mi faccio tipo 2 tiretti stesso, mi ci sdraio e proprio il sistema neurologico si rilassa di brutto. E allora lì posso dormire 2 ore e proprio piglia sonno, beh. Però poi il discorso è sempre quello che quando magari ti giri, non insoggo, magari o c'è il cambio di temperatura, o magari vai effettivamente in capo, di niscete e devi bisare. Quindi bisogna che tanto è una battaglia bessa, che sai, gira il uretto, e bucurene di come sia tutti i doppi degli santi e via dicendo, pizza di tanghi e cosa della cadria. e quindi magari me ne vado in salone e mi metto a vedere cosa so per le televisioni, se hanno mangine e altre cose così, e niente. E poi se c'ho un carico, perché il problema mio non è che la nervatura mi fa tipo dolorire il dorso, il coso, sono le gambe che alla fine si intorpidiscono, perché i nervi sono, come si dice, sono compressi dalla parte bassa delle vertebre, quindi la C, cos'è? C, no, il lombare, la sezione lombare, io ciò che è compressa, capito? Ed è a chi mi ha sembrato male praticamente, come mi hanno bullonato quella specie di vittine con quei ferretti, io sono leggermente inclinato sulla sinistra, e quindi anche se io mi seguo dritto, cioè cerco la posizione che mi appoggio anche con la schiena alla sedietta, però poi alla fine mi porta a rimanere con i gomiti tipo sul cuscino, perché l'organismo va a cercare la posizione più idonea per star bene. E mi va un bel cavolano, mi va un bel cavolano, anche quando vedo il giambo di un tempo me ne accorgo subito e a volte sclero. Un bel di volte ho l'animo che si buona finita da giù, ragazzi, ma tanto mi va a sclerare. Oh già. Secondo me ti sei fatto anche prendere un po' tu dalla cosa, dalla situazione, ti sei lasciato andare anche un po' tu, eh. Scusa se te lo dico pure così. No, Gavi, perché prima, quando ero tipo freddo di gozzo, più o meno camminavo anche senza stampare il corpo, però alla fine me ne accorgevo che il peso del carico non... Cioè, se io facevo 5 metri camminando, badì, arrivavo in campagna, che prima non c'era cancello elettrico, me ne scendevo, piano piano mi avvicinavo al cancello, lo aprivo, che non è pesante il mio cancello, che è leggero, e niente, e me ne stavo dentro con la mano. Poi mi sedevo giù in fondo, c'è un muretto di pietra secco, con un tavolino mi avevo messo, una sedietta, e mi compravo un paninetto a cappuccini nel negozietto alimentare con una bottiglietta d'acqua oppure una di quelle birrette piccoline, e niente, me lo mangiavo e mi facevo tipo la merenda mattutina, diciamo lì, a qualche zibusata, poi delle televisioni, library, si vedeva tutto il golfo della Ginara, però poi piano piano ha cominciato la muscolatura, Gavi, a non nutrirsi, nel senso che anche se io mangiavo, e però quando mi mettevo in moto, dimmo, a camminare, a fare, l'organismo consumava troppo energie, perché io con la forza di volontà ridotto come intero, dovevo andare, se dovevo andare a fare una cosa, nel senso dovevo scendere a campagna, Bruchi mi bussavo il muretto, che c'era lo zoli, c'erano i gatti, c'erano i cani, stavo bene, magari nel periodo delle nespole, mi prendevo due o tre nespole dall'albero, me le mettevo in un cosettino, me le risciacquavo e sembrava che mi dava energia. Però come stanno a dire a Pisamini, li punivo a picchini, li vedi in terra, il carico sulla zona lombare e nel bacino era una cosa incredibile. Io non lo davo a vedere, però era una cosa incredibile. E cosa facevo? Mi facevo magari un girettino a Marina di Sosso, perché la 127 aveva il pedale della frizione leggero, che era leggera. Facevo un girettino alla Marina e da poi mi trattavo a casa. Mi trattavo a casa e alla fine mi sdraiavo perché dovevo rilassare l'organismo. E invece poi è capitato che mi è caduta la stampella sul piede sinistro, mi ha fatto questo graffietto dove quella gamba rimaneva compressa e il raffio, Gavi, non è mai guarito. Praticamente veniva tipo quella infermiera, ma questo vuole pulito, vuole fregato, c'è un po' di fibrina, e magari si stava rimarginando, no? Si va la crosticina, e gli dà no, questo bisogna toglierlo perché sennò poi... E alla fine il subedi non è più guarito, cioè sto mettendo delle medicine idonee, però alla fine drena, perché dalla schiena, da dove ci sono quelle viti, se ce n'è qualcuno sicuramente che ha mollato, mi esce tipo una specie di acqua dal piede, drena da sopra al ponte del piede, perché è tipo baricugliato, pare che me ne farà una cosa, ma ci ha bruciato il bici. E gliel'ho detto ai medici, e loro mi hanno detto che purtroppo è tutto un fattore nervoso, e quindi i ricettori non mandano le informazioni giuste per fare la riparazione. Quindi io ho un problema dei nervi danneggiati, tu ti devi rilassare un po', Garito. Gianni, tu ti devi stare un po' tranquillo, perché loro non ti stanno dicendo che i nervi non ce la fanno, e il tuo sistema nervoso anche cerebrale, che tu non lo devi vedere, ma sei sempre agitato. Tu dai di rilassare un po', Garito, dai di rilassare. E vedrai che ti sana l'ubedi e riesci torna a fare quello che facevi prima, che se tu sei sempre impacciato di cose, di rabbia nei confronti dei dottori, tu devi pensare di candupiglia, intanto è di rosa cosa fanno loro, rosicano quando non gli dai retta e le cose vanno bene. Quando tu fai di testa tua le cose vanno bene, i medici rosicano, allora ti dicono ma tu non devi, no, ma io lo faccio perché sto meglio, io lo faccio perché sto meglio. Quindi ti rilassi con la mente, ti rilassi con tutto, e poi non guarisce perché tu c'hai il cervello sempre di lì, ti vedi il piede che non guarisce, che non riesce a alzarti, allora tu ti devi prendere e devi curarlo, devi capire più o meno la cura di questa situazione qua, e devi pensare a te, non guardare quello che dicono i dottori, non la fare più bene la dottoressa, perché intanto non lo sto facendo guarire da solo. Ci sono questi signori, questa che c'è anche una signora a Monti, anzi una ragazza a Monti, mi sa, a Monti o a Tilti, che guarisce queste cose con delle erbe, con delle medicine, e hanno guarito tante persone. Loro non chiedono soldi, loro vogliono solo rispetto, che se siete a casa sua vogliono solo rispetto. Solo che devi andare lì, però ti sacrifichi uno piglia, fai un sacrificio, vai con Davide, e loro hanno queste medicine, hanno questi infusi, hanno questa roba lì e queste cose di erbe che ti fanno, che fanno guarire. Tu ti devi informare, io l'altra volta l'ho letto, ma non era fesseria, era roba vera, era pure una femmina in questo d'ora che gli fazia quelle cose. Perché io quando mi ho rotto il braccio da piccolino, a me mia nonna mi aveva portato, mi aveva fatto dei massaggi, mi avevano operato, però l'operazione avevo sempre il braccio storto, mi hanno portato da questa signora mi ha fatto dei massaggi con delle erbe, con delle cose, anche delle preghiere, e il braccio mi è tornato normale già. Purtroppo è anche il tuo sistema nervoso cerebrale, che tu hai sempre la testa puntata lì, sempre sei sempre arrabbiato, sempre ghiacci in mente, intanto veda Gesù Cristo la Madonna, non v'entra in nuda, già. Lo sai cosa v'entra? V'entra lo zebito, come te la pensiamo noi, anche io bestemmio tanto, però alla fine mi rendo conto che c'entra il cervello, che noi qualsiasi cosa pensiamo con la testa, tu devi capire che sia vera, prima o poi, quindi tu devi pensare positivo, non devi mai pensare negativo, e devi avere la tua pace cerebrale, tu devi agattare la base da affrontare questa cosa, e vedrai che a te il piede ti guarisce e riesci a fare le cose che facevi prima. Entro un attimino in bagno già. Ehi. Belli signorini, Pipone. E allora, Anto, titti manni voi, belli titti manni. Allora, roba seria, Pipone. Ui, no, ma è un problema, il mio è un problema, perché io, anche se cerco di rimanere calmo, tranquillo, eccetera, quando mi vengono le scosse al sistema nervoso mi va a finire fuori il gab. Nonostante abbia la buona volontà di rimanere calmo, eccetera, però alla fine quando vai di dolori non me li posso tenere dentro, allora devo stare fammi bene, ma anche dicendo fesserie, capito? Perché devo scaricare, tipo, non lo so, in il non vi gioco. Quindi a tu, tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Oggi è un po' contagio anche io, da mia cognata che sta invitata a mangiare. Quindi roba buona oggi, buchetto e pasta, pasta a forno? No, no. No, un po' roba più modesta. E allora meglio leggeri e viaggi meglio. A chi si non è da voi, vari esempi di domenica in fila. Ui ui. Lo so, purtroppo, è così. Già ti capisco già. E beh, non per nessuno che ti lo sa sarà che ci vedi, che tu bravo. Ehi, mi ha detto Gianni, doppio rum, mi ha detto di prendere tipo delle medicine che ha usato lui. Che gli era successo, che non lo so, forse quando ha portato il cane un giorno in giro ha calpestato qualche trafila di ferro e ha detto che non riusciva a guarire questo piede, e alla fine con quelle medicine è riuscito a guarire ed è, ha detto che è Renabi. E sto provando anche io, sì, ci sono dei miglioramenti, però maledetto, quando ho il sistema nervoso con quei nervi compressi, pare che torni sempre appunto a capo, compresi, ma magari sei dormito, sei tranquillo e cambia magari la temperatura dell'aria e me ne cudo in terra, proprio me ne cudo in terra, come te che mi senti a nei gucchetti né a china. Ma lo sai quanto mi va di sclerare quando mi va di chiuso io? È ovvio che da voi so, tutti quanti risanti e risantini, che tanto non esiste nemmeno, che è tutta un'invenzione dell'umanità per far credere che c'è un Dio, che c'è una Madonna, e così rimbecilliscono la gente, banda a Gigia, a chi si non con tutti quanti gli idee che bisogna in ogni religione, non ve ne ne cade che è, ve ne ne cade. Lo so, e cosa puoi fare? Oh già, secondo me tu sai bene arrugarsi, sai bene, quando comincia già ricevo, allora comincia già un poco meglio. Infatti io in estate sto leggermente meglio, proprio a livello di rilassamento, di tutto, ma in inverno altro gatto d'inverno rubare una cosa tragica, sì. Adesso sono tipo da dicembre, finta avanti, che cazzo va con combattenti rubano notte. Perché a livello di terra sembra che i piedi mi si ghiaccino, che sono sempre con i piedi in mezzo alla neve. Mentre per esempio il dorso e tutto il resto, magari come cerco di tenere il dolore, come sta sudando, viste che dalla bunta della reggia. Tirati a una mina. Ovvero mi ha tipo una mina a Baco, madonna di tutti. E poi mi salgono, non so, le bestemmie, capo, di chi da piccia pigliacca. Ui, ui, io mi divorzio, mi pongo a ridini e mi metto anche a parlare da solo. Nel senso, Gianni, sacca e mo, cerca di rimanere tranquillo, chi si sono, no, che non ne capi bene. Cazzo da piccia pigliacca, ui, ui, ui. Pure la pezza della ghiaccia, ma pure la piccia pigliacca sicura. Ui, ui. Va bene, che seria, disastro. Beh signori, avevamo aperto Sanremo, a vedere cosa c'è, già lo sto seguendo ieri, e me lo continuo a guardare stasera, dai, vi lascio alle vostre quattro chiacchiere e ci sentiamo tutto all'improvviso. Vai Antonio, buonanotte Gianni, buonanotte Antonio, buonanotte a chi fosse all'ascolto. Chiudo, correttivo da parte mia, ciao, vai Antonio. Cappa, ciao ciao Capino, ce la risentiamo alle prossime, vai già. Eia eia, ciao Gavi, ciao. Immaginati che io non sappia manco chi vira Sanremo rimane, me l'ha detto mamma. Comunque dai, già è bello accucciarlo, sentire qualche canzone nuova. si rilassa un po' la mente anche. E va bene così, dai. Già ci sentiamo, come vede, tutto all'improvviso quando attendiamo il radio, ci siamo in trasmissione e va bene così. Ciao Gavi, buon proseguimento, buon tutto e alle prossime. Aspetta, te lo culo di Lamborghini. Aspetta, Lamborghini, aspetta. Ciao. E tu ce l'hai messo da un vivo, non ti preoccupare. Ho detto Lamborghini è in gamba mi. Lo sai che quel ragazzino di Sosso che fa il DJ, Daniel DJ, è andato anche in America, dove c'è lì con il marito, mi sembra che è DJ. E ogni tanto ci vanno, gli avevo poco peggio. Infatti io ogni tanto gli scrivo saluti da DJ Daniel e mi buone auguricino e da Elettra Lamborghini e adeva si poco marcanti. Io ci ho lavorato qualche volta con lei, ci ho lavorato già qualche volta con Lamborghini, qualche volta, dopo io a 3 anni travaglio con Eddie, quando vengo in Sardegna ci lavoro, già è toga, è toga. E va bene, va bene. Guarda lì il fondoschiena che già fa bene. Vai Antu, ciao, buonanotte. Ehi, la mia cultura è culturata, cuore mio, Giulia. No, figli, una vede frisionata tanto e magari da buio. Ascolta, fammi toccare le tette che... Io dico, si la butta a ridire più di te. Ehi, perché poi a carattere toga è simpatica, sta città gli scherzi, dai, non è una diffa che si offendi, ed è toga così. Guarda, io non so come manco io la so, e gira gira faccio come ha detto Gavino, ma attendo la televisione, ma corso appena appena di musica, magari mi rilassa e mi si ragioneggio di tutto canto. Perché sono tutto il giorno in tira, sono e niente, però lo devo fare perché sennò poi non riesco a stancarmi e da voi non ne trovo. Ok, andava ma hai inteso anche su The Voice? Non ti ho capito, ma tu non conosci questo programma The Voice? Ci sono certi volte cantanti di ragazzine brave, ma tanto di cappello, sì l'ho visto anche quello dove c'erano quegli adulti, caspita, facevano anche delle belle canzoni, belle interpretazioni, e ti rilassa perché poi ci sono i giudici ed è togo. Sono dei bei programmi quelli lì. Molto belle. Via. Beh, lo sai cosa ti dico anche? Va, metti tra ceneggio più e cerco di rimanere un po' tranquillo. E magari se capita domani sia all'Asciuganari che ai Nobi, già l'accendo la radiolina, che tanto sono che Nobi in questo salone e niente. E va bene così. Dai, allora... ti do, diciamo così, la buonanotte, un saluto a Gabrielino e ci sentiamo alle prossime se coincidono gli orari domani, là andave, ciao a tu. Ciao, sentiamo, ciao. E tanto mi avanti su Luzi, alimentatori, radio e niente, perché anche gli uccellini ha una zettura che devo studiare tutti gli usi, se no sta venendo sempre a Bosi, 5 stelle e me ne mangia nel gap. Andate, ciao a tu, alla prossima. Ciao, fatti da russo.